verso il futuro e oltre. Scuola, università, ITS. Dove e come prepararsi alle sfide di domani. Di Maria Piera Ceci. Oggi parleremo dell'analisi logica. Per prima cosa si deve cercare sempre il verbo che in analisi logica si chiama predicato verbale. Eccola qui una delle tantissime lezioni online disponibili per la scuola primaria. Sì, perché nelle puntate precedenti abbiamo parlato di didattica a distanza per gli studenti delle superiori, ma in questo periodo, come sapete, anche i bambini della primaria sono a casa da scuola per l'emergenza coronavirus. Allora, oggi parliamo dei più piccoli, come proseguire con la didattica, quali strumenti utilizzare. Ci siamo fatti una chiacchierata con Barbara Riccardi, insegnante all'Istituto Comprensivo Padre Semeria di Roma. L'ultimo giorno di scuola io non li ho potuti salutare perché ho avuto il turno di mattina, e quindi questo dispiacere di non esserci visti, detti delle cose, attraverso gli strumenti tecnologici come può essere un cellulare o un PC, sono stati da supporto e sono da supporto per ricreare e riprendere il filo della comunicazione e della relazione tra di noi. Quello che posso dire è che stiamo utilizzando il registro online, che lo stiamo utilizzando proprio come se fosse una vera e propria chat, dove la mattina ci diamo il buongiorno, condividiamo il quotidiano, quello che stiamo facendo, ma soprattutto il passaggio di quelle che possono essere le consegne sui compiti, ma più che altro parlare di esperienza, quello che stanno facendo. Lo strumento utile in questo momento è anche utilizzare le foto. Ho chiesto loro di fare delle foto di quello che accade, quindi chi manda foto delle torte realizzate con la nonna, e chi impasta per il pranzo, impara a fare gli gnocchi, tutto quello che può essere un'esperienza, valorizzare le piccole cose, non riempirli di compiti. Tra gli strumenti utilizzeremo la classe virtuale, ma importante è quello di riprendere appunto a riguardarci negli occhi, perché quando i bambini sono così piccoli lo sguardo, la comunicazione arriva attraverso il capirsi, attraverso gli occhi. Tutti i tuoi alunni hanno un PC o un tablet o uno smartphone per poter comunicare con te? Questa è la difficoltà, perché essendo così piccoli soltanto alcuni hanno il proprio cellulare, se no devono utilizzare il cellulare dei genitori o quello dei nonni. Il punto è che durante la giornata la maggior parte di loro sono con i nonni, e i nonni non sono così smart e tecnologici da utilizzare la piattaforma che vorremmo utilizzare, che si chiama Zoom, dove poterci vedere. Quindi c'è sempre bisogno di collegarci nel momento in cui ci sono presenti tutti i genitori, e quindi i nostri collegamenti saranno soprattutto durante le ore del pomeriggio al ritorno del lavoro da tutti, in modo tale che creiamo un gruppo inclusivo e non possiamo tralasciare nessuno in questo momento di emergenza. La cosa importante è creare quell'atmosfera, diciamo, di gruppo, di classe, solidale e collaborativo. Perché quali emozioni traspaiono anche dalle foto che ti arrivano dai bambini? Che cosa stanno provando in questo momento e che cosa hanno capito? Allora, i bambini sono sempre lo specchio di rimando di noi mondo adulto, quindi se c'è un mondo adulto ansiogeno, preoccupato, loro assorbono questo che gira nell'aria. Il punto è che se noi richiamo il gruppo classe, solidale, la squadra, la curiosità, non vediamo l'ora di rivederci nel quadratino, sul PC o sul cellulare per salutarci dal vivo. Tutto ciò che andremo a fare nei lavori, nello scambio, soprattutto nel dialogo, è proprio quello emozionale, lavorare sulle emozioni positive, costruttive e soprattutto sulla creatività, utilizzando anche le esperienze dei genitori super tecnologici. Per esempio, un papà che ci insegnerà la civiltà, la storia romana attraverso l'utilizzo dei soldatini. Chiederò ad ognuno dei bambini di realizzare il proprio soldatino per andare a ricreare una storia virtuale collegandoci con tutta la classe. Dalla scuola primaria di Barbara Riccardi a quella secondaria di primo grado di Giuseppe Paschetto a Mosso, in provincia di Biella. Questa è una delle sue video lezioni su web. Buongiorno ragazzi. Sapete tutti che un solido in un liquido può galleggiare oppure andare a fondo. Oggi proveremo a costruire una torre multicolore di liquidi, di fluidi. Barbara e Giuseppe hanno molte cose in comune, fra cui un'energia, una passione per il loro lavoro davvero belli anche da raccontare. Hanno anche in comune però un'altra cosa: entrambi sono stati finalisti al Global Teacher Prize, quello che definiamo un po' l'Oscar per gli insegnanti, e non sarà un caso. Con l'esperimento di Giuseppe passiamo a parlare dunque dei ragazzi delle medie, le scuole secondarie di primo grado. Lo facciamo andando in un istituto davvero speciale, il Garbaccio di Mosso. Qui si sperimentano metodi innovativi che vanno dalle lezioni di cucina alla matematica senza libri di testo insufficienze, naturalmente con l'uso della tecnologia, che in questo periodo è tornata davvero molto utile. Via dunque a video lezioni e classi virtuali, come ci racconta l'insegnante di lettere Elena Salmistraro. Diciamo che nelle primissime fasi emergenziali siamo ricorsi a supporti come Padlet oppure al registro elettronico per le comunicazioni alle famiglie, la trasmissione dei compiti. Poi però dopo questa prima fase ci siamo subito attivati con una serie di strumenti proprio pensati in modo specifico per la didattica a distanza, quindi Screencast-O-Matic per esempio, che è un programma che consente la registrazione di video lezioni asincrone utilizzando una webcam oppure catturando ciò che viene mostrato a desktop. Facciamo videoconferenze con i ragazzi attraverso Hangouts Meet. Utilizziamo Kahoot, che è una piattaforma di apprendimento che è utile a creare quiz a scelta multipla in modalità gioco. E poi nell'arco di una settimana, da martedì scorso, abbiamo aperto la piattaforma Classroom, su cui è possibile caricare del materiale, ricevere e restituire compiti, inviare feedback e predisporre anche un calendario settimanale di lezioni in videoconferenza, in modo tale da garantire a tutti i docenti l'accesso senza sovrapposizioni. E anche per ricreare un po' l'effetto classe, no? Assolutamente sì. Sì, i ragazzi hanno aderito con grande entusiasmo, il motto della nostra scuola è felice a scuola si può, il benessere dei ragazzi per noi è imprescindibile e cerchiamo di garantire questo benessere anche in una situazione particolare come questa, quindi facendo sentire la nostra vicinanza a loro e anche alle famiglie che devo dire in questa situazione stanno davvero mostrando grande spirito di collaborazione. Ecco, un'età un po' strana, no? Quella dei ragazzi delle medie, della scuola secondaria di primo grado, non sono più piccolini, quindi non è che vadano rassicurati più di tanto, comunque insomma ci si può parlare con questi ragazzi, non sono però neppure grandi e quindi abbastanza maturi per capire del tutto quello che gli sta succedendo intorno e anche magari per mettersi di buzzo buono a studiare, capendo che è importante in questo momento andare avanti con la didattica. Come vi siete regolati in tal modo? C'è una specificità in questo momento del vostro ruolo proprio con questi ragazzini 11-14 anni, un'età un po' particolare? Sì, allora diciamo che noi siamo una piccola realtà, quindi questo anche in una situazione di normalità ci garantisce un rapporto piuttosto stretto, piuttosto intimo con i nostri ragazzi, per cui per esempio quando io mi connetto per le video lezioni i primi minuti sono sempre dedicati un po' alla chiacchiera, a chiedersi un po' come, che cosa si è fatto, come ci si sente. Molti di loro lamentano proprio il fatto di annoiarsi e di voler tornare a scuola. Devo dire che comunque nella maggior parte dei casi mostrano anche grande senso di responsabilità, perché nonostante l'attribuzione dei compiti, l'assegnazione dei compiti ovviamente sia calibrata in base alle necessità, evitiamo di sovraccaricarli di lavoro, loro cercano comunque di rispettare le consegne e di lavorare seriamente. Come va a livello di incarichi per la preparazione degli esami di terza media? Perché quelli di terza saranno un po' preoccupati di questo rallentamento, di questo stop. Sì, allora al momento siamo in una fase di stand-by e quindi anche tutto quello che riguarda per esempio le prove invalsi è tutto fermo. Tuttavia noi stiamo cercando di rassicurare i ragazzi che in qualche modo riusciremo ad arrivare serenamente alla fine dell'anno con quello che abbiamo e insomma mi sembrano abbastanza tranquilli, ecco, da questo punto di vista. Sono tutti in grado di usare le tecnologie per stare al passo con le video lezioni, con i compiti caricati sul registro elettronico? Come le dicevo prima, abbiamo avuto una grossissima prova di collaborazione anche da parte delle famiglie che laddove è possibile affiancano i propri figli nell'utilizzo degli strumenti. I ragazzi comunque hanno potenzialità spesso inaspettate e devo dire che anche in questa situazione hanno dimostrato una grandissima capacità di adattamento. Quindi in generale sì, gli unici problemi che a volte si registrano sono magari legati alla connessione, ma la loro capacità di interagire con gli strumenti informatici è decisamente decisamente migliore rispetto alla mia, per esempio. Ma che cosa resterà di tutto questo lavoro che state svolgendo a distanza una volta che l'emergenza coronavirus sarà, speriamo davvero molto presto, finita? Io tendo a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi considero questo un po' come un'occasione di crescita anche per noi docenti, perché possiamo sfruttare questa situazione per diventare non solo persone ma anche professionisti migliori e quindi magari arricchire poi la nostra didattica con strumenti e attività che magari prima ci erano sconosciute. Ce ne vuole raccontare una che le piace di più di tutte le altre che state facendo insieme? Beh, allora io per esempio tra le video lezioni sincrone che ho caricato, ne ho caricate alcune sul Decameron di Boccaccio, mai così attuale come in questo momento, quindi stiamo facendo un lavoro un po' di parallelismo tra i giovani di Boccaccio che si ritirano in campagna per sfuggire alla peste e i nostri ragazzi che sono costretti invece a casa davanti al PC. Quindi leggiamo insieme le novelle, io le registro, molti di loro hanno la possibilità di ascoltare il materiale a casa e poi ne discutiamo quando ci riconnettiamo. Lo stiamo sentendo in queste settimane, tante le scuole che non si sono fatte trovare impreparate, altre stanno facendo fatica perché non avevano invece fatto formazione agli insegnanti e non usavano ancora didattiche innovative quotidianamente. Ogni settimana allora abbiamo citato alcune delle tante iniziative di aiuto per le scuole e per le famiglie. Proseguiamo la nostra carrellata oggi con il gruppo Spaggiari Parma, specializzato in servizi e strumenti multimediali per il mondo della scuola, gruppo che ha deciso di implementare e di offrire totalmente gratuitamente il servizio aule virtuali che permette appunto alle scuole di gestire e svolgere attività didattiche a distanza. Ma non sono soltanto i programmi didattici ad aver risentito della chiusura delle scuole. Si sono fermate infatti anche molte attività complementari, come i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, quella che prima si chiamava alternanza scuola-lavoro. E allora Junior Achievement, organizzazione no profit molto impegnata su questo fronte, ha deciso di implementare online, tramite la piattaforma WeSchool, Idee in Azione, il suo programma di educazione imprenditoriale, così che i docenti possano proseguire con le lezioni a distanza con i ragazzi. E con questo è tutto, vi ricordo che anche le altre puntate di Verso il Futuro e Oltre sono disponibili su radio24.it. Il mese di marzo l'abbiamo dedicato alla didattica a distanza, che sta consentendo, come sapete, a scuole e ai nostri ragazzi di proseguire con lo studio. Ben venga dunque! Speriamo però davvero di poter tornare tutti presto alla scuola vera, quella con banchi, lavagne e soprattutto con persone in carne ed ossa. Ne hanno tutti bisogno, i professori, i ragazzi, le famiglie. Un saluto da Maria Piera Ceci.